Xylella o di inganno Xylella. Proprio partendo da questi presupposti prima menzionati, e proprio andando diciamo a dire in primo luogo che si sta creando veramente un'estrema confusione, un fatto che potrebbe essere anche semplice lo si sta rendendo sempre più complesso per alimentare appunto questa confusione in giro. Chiaramente i media hanno un ruolo come al solito determinante nel creare tutta questa confusione, per cui passando nel merito del discorso potremmo già dire che, come detto prima, possiamo suddividere già in tre tipi di modelli, no? Di analisi, voglio dire. Un'analisi che può essere più tipicamente agricola, l'altra che può essere più tipicamente tecnico-scientifica e l'altra che è sicuramente politica, insomma, come analisi, no? Quella più tipicamente agricola, innanzitutto bisogna ammettere con estrema semplicità, parliamo in Puglia in modo particolare di alberi millenari oltre che monumentali, no? Cioè specie di piante, di vegetali che veramente sono riusciti a sopravvivere così tanto a lungo tempo che effettivamente noi dovremmo prostrarci quasi di fronte a loro, no? Chiedere quasi consiglio a loro e non inveire e torturarli, insomma, in questo modo. E questo perché praticamente la pianta, voglio dire, 500 anni fa non aveva bisogno di nessuna chimica, di nessun prodotto, e sicuramente le forme come dire, di microorganismi, indipendentemente se erano batteri o funghi o virus, già preesistevano, e la pianta sicuramente molti secoli fa riusciva tranquillamente a sopravvivere, a vegetare e dare degli ottimi frutti, magari ottimi anche rispetto a quelli odierni, voglio dire, no, senza nessun tipo di problema. Quindi l'intervento dell'uomo deve essere sempre preso con molte pinze, insomma, no? Da questo punto di vista. Scendendo nel merito, il batterio innanzitutto, voglio dire, sono stati fatti migliaia di campionamenti, proprio migliaia, migliaia, migliaia. Il batterio è stato ritrovato, parlo chiaramente della Xylella fastidiosa, in un numero di casi veramente estremamente bassi, ma indipendentemente dalle percentuali che si possono dare, faccio un esempio molto pratico e quotidiano. Lunedì scorso sono iniziati i primi espianti, nemmeno nelle Cese, sono iniziati nel Brindisino, nel paese di Oria. Lì la forestale aveva segnato in rosso per campionare 250 alberi di olivo. Su questi 250 alberi campionati, solo in 7 alberi praticamente è stata ritrovata la Xylella. Quindi non si può dire da un punto di vista manco scientifico che la responsabilità è della Xylella. Chiaramente poi, come dire, il mondo tecnico-scientifico a un certo punto si ferma, perché come sappiamo la cosiddetta scienza non è mai neutrale, insomma, no? per intenderci. Però nella totalità dei casi si può dire, da soli o associati eventualmente anche con la Xylella, eventualmente si ritrovano solo e soltanto funghi, in modo particolare tre specie di funghi. Quindi se proprio vogliamo parlare di microorganismi onnipresente in quello che viene chiamato oggigiorno il disseccamento rapido dell'olivo, praticamente dovremmo parlare più di funghi e non di Xylella. E questi funghi sono curabilissimi, non hanno bisogno. E questi funghi sono curabilissimi, tant'è vero che ci sono stati già praticamente dei modelli, degli esempi, delle pratiche nel Salento Leccese, voglio dire, contro i funghi. Tra l'altro si tratta di prodotti che si sono sempre stati usati storicamente nell'agricoltura, si parla del banalissimo solfato di rame e calce, che da un punto di vista, voglio dire, del concetto del veleno non ce l'ha, ma non c'ha nemmeno un impatto sull'ambiente, voglio dire, no? Flora e fauna compresa, indipendentemente dall'uomo, voglio dire. Ma proprio questo fa sospettare già il primo segno dell'inganno, no? Il primo segno, sì, certo. Ecco, perché allora prendersela praticamente con la Xylella fastidiosa, che ricordiamo è un batterio da quarantena e non ha nessun prodotto che funzioni contro di essa, mentre invece noi abbiamo lì di fronte i funghi presenti nella totalità dei casi, anche da soli senza Xylella, soprattutto da soli senza Xylella, e avremmo già un prodotto bell'e pronto, storico, che non costa niente e che non farebbe nemmeno rimpinguare le multinazionali dei veleni. Allora, sì, perché qui invece la stampa scrive, insomma, generalmente dice: ah, non c'è soluzione, l'unica soluzione è sradicare gli alberi. Sono stati trattati praticamente centinaia di alberi di olivo nel Salento, questi si sono ripresi, letteralmente ripresi, stanno in vegetazione, ma tra l'altro lì anche dove sono stati focolai iniziali, dove effettivamente ci sono numerosi alberi di olivo completamente secchi, sembrano quasi bruciati, questi qua adesso che sta iniziando la stagione praticamente primaverile stanno gemmando i polloni da sotto dappertutto, quindi anche il concetto di espianto, di sradicazione è completamente, voglio dire, fuori posto, spropositato, perché chi conosce l'albero di olivo sa perfettamente bene che l'albero di olivo è uno degli alberi più eccezionali che esiste proprio sul pianeta. È difficile far fuori un albero di olivo, anche l'uomo deve metterci chissà quante cose per farlo fuori, perché altrimenti, diversamente, forse manco una ruspa potrebbe buttarlo per terra. Quindi se noi lasciassimo un po' di tempo in più a quest'albero di olivo si riprenderebbe da solo, insomma. Si riprenderebbe da solo senza nessun tipo di problema. Comunque torniamo praticamente nel merito, allora, perché la xylella, perché è un batterio da quarantena, perché questa è l'unica situazione che può permettere dei poteri speciali, un commissario straordinario. Allora, noi, senza prenderci in giro, sappiamo perfettamente bene in Italia che come c'è di mezzo un interesse nazionale, una pubblica utilità, una indifferibilità, si scattano dei meccanismi tali di poteri speciali talmente, come dire, grandi da imporre poi praticamente alla collettività, alla popolazione, al popolo, tutta una serie di situazioni che diversamente le istituzioni potrebbero gestire. La solita politica dell'emergenza, insomma. Ecco, è quello praticamente del... Ecco, in questo caso i poteri speciali in che cosa consisterebbero rispetto a dei vincoli che invece esistono? Allora, l'albero d'olivo, da tenere presente, che come dire, è uno degli alberi che attualmente dovrebbe essere più protetto. Molte altre piante, tipi di piante, sono effettivamente anche nel Salento in via di estinzione, proprio perché, come dire, potremmo pure parlarne, entrare nel merito, no? Un mercato volutamente selvaggio, un progetto politico di fare del Salento tutt'altro che una terra agricola, voglio dire, no? Ha fatto già scomparire praticamente moltissime specie di piante, sicuramente. L'albero di olivo invece è completamente protetto, perché comunque rappresenta un simbolo, perché anche a livello mondiale, voglio dire, gli uliveti pugliesi hanno un certo peso. Allora bisognava scavalcare anche questo vincolo sotto certi aspetti, no? Bisognava scavalcare, come dire, la scelta della gente, del singolo contadino, a dire: no, io secondo me è questo, per cui io me lo curo in questo modo. Invece con i poteri speciali, con l'emergenza, c'è il commissario straordinario che dice: senti, tu non conti niente in casa tua, vengo io e decido io quello che è roba tua. Tradotto per gli ascoltatori, diciamo così: c'è una legge, credo sicuramente regionale, ma forse nazionale, in cui l'olivo secolare soprattutto è protetto, non si può abbattere nessuno. Ce n'è anche un'europea, a maggior ragione. E ce n'è anche una costituzionale che praticamente mi sembra che sia il punto 9 della Costituzione. Ecco. Però non vorrei dire la fetteria. Sì, un riferimento, evidentemente, non parla dell'olivo, la Costituzione. Certo, c'è la tutela del paesaggio, poi ci sono delle leggi ad hoc, in particolare che tutelano gli olivi in Puglia, ma penso anche in altre regioni. Allora, per superare questo vincolo... Sono le stesse leggi che ha fatto la stessa regione Puglia, la stessa amministrazione. Per superare questo vincolo ti inventi la xylella... Per superare questo vincolo, che è un vincolo di legge, ti inventi o esageri, diciamo così, la xylella, che non ha soluzioni se non l'abbattimento degli olivi. E no, anche in questo, voglio dire, è normale che un batterio da quarantena, se non ci sono soluzioni scientifiche, non ce l'ha né il commissario, né il contadino, né il politico, voglio dire, no? Certo. Su questo non ci piove. Però questo non significa fare delle forzature. Allora, le forzature quali sono? Innanzitutto, voglio dire, stare ad osservare sta pianta di olivo che sta rivegetando è già molto, voglio dire, no? Ma che vogliamo fare? Un esempio, voglio dire, molto attinente: quando una persona sta male, non so, c'ha la diarrea, allora io sospetto praticamente che sia il colera. Sì. Ma se io non trovo il batterio del colera e il microbo del colera, il vibrione non c'è, no, e magari trovo la salmonella, devo dire che è tifo quello che non è più colera. Chiaro, certo, come discorso. E poi a maggior ragione, che faccio? Siccome c'è la diarrea, lo ammazzo? Sì, esatto. E praticamente l'albero di olivo, oltre a, come dire, ad assistere a tutte le sue continue torture, è condannato in questo mondo, in questo modo praticamente all'etonasia completa, no? Certo. Questo è chiarissimo. Allora, perché... questo è chiarissimo e ti sei spiegato molto bene. Allora, a questo punto chi ci ascolta, insomma, tutti quanti ci chiediamo: ma allora perché, che cosa c'è dietro? Tu mi accennavi al fatto, per esempio, che gli olivi secolari, uno dei motivi, sono distanziati parecchio tra loro. Sì, sì, sì. E quindi abbattendoli consentirebbero, per esempio, uno dei motivi, una ripiantazione di olivi molto più stretti, quindi un allevamenti intensivi, quindi una speculazione interna, diciamo, all'industria dell'olio, possiamo chiamarla. Sì, non è solo questo però l'unico problema. E prima di arrivare a questo, come dire, perché poi io immagino che in Puglia certe cose sono conosciute, fuori dalla Puglia sicuramente non si sa nulla. Nel piano del commissario straordinario, al di là dell'espianto totale, perché questo ha suddiviso il Salento in tre parti, no? Sì. Che sono le zone di focolaio, le zone di cuscinetto e le zone di profilassi, no? In tutte quelle zone, comprese le profilassi, praticamente vengono contemplate, come dire, trattamenti chimici ad un livello veramente enorme. Per avere un'idea, bisognerebbe fare due trattamenti con insetticidi, uno a maggio e l'altro a luglio, e poi rinizzare a settembre e ottobre sempre con gli insetticidi, perché poi, siccome contro il batterio non c'è nulla, ce la prendiamo con gli insetti vettori del batterio, che in modo particolare si chiamano praticamente cicadina e sputacchina. Ma l'insetticida praticamente non va ad agire soltanto su, certo, questi insetti, no? Chiaramente ammazza tutti i tipi di insetti che ci sono in giro. E questo è un danno per l'agricoltura. Il risultato, certo, praticamente, come dire, è pazzesco, perché gli insetti servono per l'impollinazione, ma andando a creare uno squilibrio fra fauna e flora, praticamente tutta quella biodiversità che poi è anche tipica del Salento, veramente andrebbe praticamente a morire, questo è il concetto. E siccome è proprio questa biodiversità intaccata del terreno che mette in sofferenza la pianta, tra i tanti motivi per cui la pianta si sta ammalando, perché di fatto il problema c'è, noi andremmo ad aggravare in questo modo uno stato di sofferenza alla pianta, non dandogli le possibilità di andarsi praticamente a rigenerare. Certo. È chiaro questo concetto. Ammazzando, no? Tutto quello che viceversa, ammazzando poi tutto quello che sta nel ciclo biologico, è la natura intorno all'albero, è chiaro? Sì, sì. E quindi sia la parte dei nutrienti e sia la parte delle difese stesse dell'albero. Oltre poi, come dicevi, tutti gli insetti, perché a quel punto non è che c'è la carta d'identità, l'insetticida distingue tra un insetto e l'altro. Sì. Certo. Rispetto al discorso dei progetti, quindi potremmo anche scendere da un punto di vista, voglio dire, più prettamente dell'analisi politica, i progetti che si possono fare sono moltissimi. Non scordiamoci che sul Salento, sulla Puglia, ci sono dei progetti politici storici, no? di variazione completamente di un territorio. Noi sappiamo perfettamente bene cosa rappresenta l'area industriale di Taranto, quella di Brindisi. Sappiamo perfettamente bene come vi è stato un saccheggio delle terre enorme a causa proprio delle cosiddette energie verdi rinnovabili. Sì, se noi poi, qui, poi ci mettiamo, diciamolo chiaramente, tantissimi vigneti e credo, insomma, se ricordo bene, anche uliveti sono stati, diciamo, sostituiti dai pannelli solari. Per cui dietro a tutto questo, andare, mentre prima l'ulivo era praticamente un monumento che ti andava a fissare un limite, un vincolo praticamente per metterci qualsiasi schifezza, in questo modo, abbattendo l'albero, praticamente tu hai tolto il vincolo, insomma, certo. Questo è il concetto, per cui quel territorio potrebbe servire ad altro, sia in termini, diciamo, agricoli, ma non più di un'agricoltura contadina, perché a questo punto parliamo di imprenditoria agricola. Sì. No? Quindi se vogliamo entrare anche nel merito, se noi abbiniamo, come dire, l'agricoltura naturale a un qualcosa che poi significa buona alimentazione, buona salute, tutto questo poi non c'è più, voglio dire, no? È garantito questo. A maggior ragione se cominciamo a spruzzare tutto con insetticidi e pesticidi. Maggior ragione, perché se io devo avvelenare le olive prima di raccoglierlo, io sto raccogliendo olive avvelenate e quindi olio avvelenato. Certo. Non è un caso che abbinato a tutti questi progetti c'è poi, come dire, la conferma, vedi la Francia praticamente che ecco, cerca di spiegare cosa c'entra la Francia in questo. La Francia, perché in teoria fino a qualche tempo fa l'Italia, proprio grazie attraverso la Puglia, non aveva praticamente concorrenti a livello mondiale per quanto riguarda il mercato dell'olio. Sì. Cioè l'Italia aveva dei primati mondiali dell'olio, come del vino, eccetera, eccetera, eccetera, questo sicuramente era grazie alla Puglia. Significa che nel momento in cui il mercato globale vuole spostare delle produzioni, quindi compreso anche l'olio d'oliva, e soprattutto fare delle produzioni, come dire, intensive, più produttive, a discapito sicuramente della qualità, significa che ha progetti diversi, perché poi nel concetto di produzione e produttività significa anche costi. Certo. Quindi probabilmente può abbassare i costi andando a fare l'olio in Nord Africa, in Spagna, in Grecia, eccetera, eccetera. La stessa Francia produce olio, per cui nel momento in cui c'è il blocco dell'export italiano, sicuramente altri mercati se ne avvantaggerebbero. Quindi questa sarebbe proprio una speculazione di altissimo livello che viaggia sulle multinazionali. Cito l'Unilever per dire una sigla che raggruppa poi tanti prodotti alimentari, compreso evidentemente olio o magari vino, non lo so, ma più facile olio che vino, e che quindi è interessato a una commercializzazione standardizzata a scapito appunto della qualità, delle caratteristiche, insomma, di genuinità. Ma infatti, voglio dire, lo stesso prezzo che viene fissato per l'olio, per le olive, voglio dire, dal mercato, è proprio quel prezzo estremamente basso che praticamente fa entrare in tilt, come dire, tutta quella che è la questione poi agricola, soprattutto al sud, no? Perché poi il contadino, spinto anche da certe esigenze economiche, tutto sommato, anche se comunque ha delle responsabilità, però è costretto a produrre in un certo modo rispetto a un altro. È chiaro che se il prezzo del prodotto, dell'olio, fosse diverso, in questo modo uno dice, beh, io invece di fare sta schifezza ne farei un'altra che non è schifezza. Certo. Invece, e per abbassare i costi della lavorazione, per avere un'idea, qui come inizia la campagna olearia, le olive vengono vendute a 16 euro il quintale. Raccolte? Olive raccolte? Praticamente olive già raccolte, sì. E nei frantoi l'olio te lo pagano a 1,80 euro circa al chilo, che tolta la molitura ti rimane, se no, 50 centesimi, 80 centesimi al chilo. Per avere un'idea, così, quando si parla di costi bassi, quindi parliamo di idea proprio reale, voglio dire, certo, di quello che accade. Per cui, voglio dire, tutti quanti noi sappiamo, quando parliamo di mercato globale, poi cosa insiste. Ma è come se a un certo punto, realmente, voglio dire, no, attualmente, sia da un punto di vista del governo centrale che dal governo regionale, e anche da un punto di vista della gestione politica spicciola delle risorse agricole, voglio dire, c'è il governo centrale che ti blocca le importazioni verso la Russia, come tutti quanti noi sappiamo, con un danno economico molto, molto serio, no? C'è il governo regionale che invece di tutelare il prodotto praticamente interno, come dire, facilita tutta questa confusione incredibile praticamente anche nel, come dire, oltre Puglia, cercando di non smascherare tutte queste confusioni che l'olio con la xylella sarebbe, ecco, ammalato. Ma in questo caso specifico, secondo te, ma Vendola che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto? Praticamente niente? Allora, Vendola innanzitutto ha permesso i poteri speciali, perché la, certo, regione poteva anche attuare in opporsi, tutti questi anni, e sono molti anni, perché Vendola praticamente ha fatto due legislature di reale praticamente gestione delle politiche agricole. In questo non c'è stato assolutamente. Lo prova già il fatto, voglio dire, che la Puglia è diventata l'azienda leader dei pannelli solari, dell'eolico, voglio dire, e tutto questo è andato a discapito dell'agricoltura e dei territori. Le ultime dichiarazioni di Vendola, perché chiaramente adesso, come per altre situazioni, ci sono le elezioni regionali, quindi tutti cercano di non attaccare, proprio per non compromettersi praticamente il voto elettorale. Le ultime dichiarazioni di Vendola dice: beh, non andiamo ad espiantare quelli leccesi, espiantiamo soltanto quella della zona Cuscinetto verso Brindisi. Cioè, guardate che soluzione, cioè, è pazzesco. E tra l'altro in questo modo si metterebbero praticamente uni contro l'altro i contadini, sì, brindisini e quelli leccesi, no? Perché certo, dici, certo, come io devo spiantare l'albero e quell'altro che è più, no, certo, secco praticamente. Cioè, è chiaro come concetto? Sì, sì, sì. È veramente abominevole. Tra l'altro dico anche per informazione che lunedì, quindi fra due giorni, ci sarà un consiglio regionale monotematico a Bari, ed è previsto, diciamo, da parte del movimento antagonista una presenza quella di fare un sitting davanti alla regione. Senti, a proposito, adesso come ultimo argomento, poi insomma chiudiamo, ecco, il movimento antagonista. Io so, oltre che delle tue altre iniziative, insomma, costituzione di comitati, associazioni, insomma, tutte legate a un'agricoltura possiamo dire biologica, anche se il termine è abusato, il termine può essere confusionario, come sì, la è confusione, esatto. Esatto, ecco, dillo tu meglio. Niente, nel Salento c'è una risposta veramente, diciamo, soprattutto nella provincia di Lecce, dove lì è come dire, è iniziata quella zona focolaio, che tra l'altro molto spiegabile facendo anche altre analisi. Chiaramente poi il Salento è stato appunto suddiviso in tutte quelle zone tipo Cuscinetto e Profilasse, quindi abbraccia anche le altre due province di Brindisi e Taranto, però in tutte queste tre province, a maggior ragione in quella leccese, c'è un fermento veramente molto molto serio, molto combattivo. Tanto è vero che il lunedì, quando c'è stato l'espianto di quegli alberi, c'era un bel presidio praticamente di Atoria, e soltanto attraverso un escamotaggio delle forze dell'ordine praticamente poi quelli della forestale sono riusciti a tagliare qualche albero, ma nemmeno ad espiantarlo, perché poi sui cingoli della ruspa c'erano i compagni seduti a bloccare la ruspa stessa, insomma. Certo. Invece dopo due giorni quell'espianto doveva continuare in un altro comune leccese, che è Veglie, e lì praticamente è stato impedito, e c'è un presidio anche di notte a tutela praticamente degli alberi da espiantare. È chiaro, voglio dire, che io penso che il Salento ne ha sopportate tante di più, voglio dire, spero, ecco, che questa, come abbiamo anche scritto nel nostro documento, voglio dire che questa xylella diventi praticamente un boomerang di riscatto, voglio dire, no? Proprio perché sta lì e che gli ritorni contro, perché sostanzialmente chi almeno ha un minimo di conoscenza pugliese, noi sappiamo che hanno iniziato ad abbattere le pecore intorno all'Ivola, perché tutti viene di ossina, poi a distanza di un anno cominciano ad abbattere anche le mucche, no? E i vigneti e gli uliveti si abbattono per i pannelli solari, e le falde sono estremamente contaminate per le enormi discariche che ci sono in Puglia. A sto punto, con l'eradicazione degli uliveti, praticamente la Puglia rischia di diventare veramente un deserto. Sì, e allora, sì, sì. Siccome la globalizzazione non può essere un'alternativa, perché è da più di mezzo secolo che la Puglia e il Salento in modo particolare ha subito una colonizzazione del territorio, e quindi è fallito in questa prova. Se poi questi ci tolgono l'unica ricchezza, che è veramente il territorio, a questo punto la Puglia diventerebbe un deserto. Cioè, la Puglia si sta giocando veramente attraverso questa, battaglia sulla xylella, sì. Questa xylella si sta giocando veramente una partita molto seria e molto grossa. Se anche l'albero di olivo viene meno, e allora certi progetti, che tra l'altro come dire, se noi poi vogliamo fare dei riferimenti molto precisi, all'Expo di Milano non si parla di agricoltura naturale. Sì, bisogna che vi organizzate, gli portate su un po' di xylella all'Expo di Milano. E lo stesso governo centrale praticamente si sta attrezzando a firmare trattati internazionali tipo il TTIP o il TISA, cioè significa praticamente bloccare l'export italiano e introdurre prodotti spazzatura dagli Stati Uniti. E questo significa che tutti quei territori su base agricola veramente subiranno un collasso enorme. Certo. Un collasso enorme. Questo è il, così tanto per finire un po', per chiudere il cerchio, voglio dire, no? In grande stile, insomma. Va bene, a me sembra, insomma, che il tuo contributo è stato preciso, insomma, importante, ci ha dato delle notizie, ha chiarito anche alcuni aspetti, insomma, qui c'è un imbroglio da smascherare, mi sembra che vi state attrezzando e che è importante che la cosa si sappia a livello nazionale, insomma, perché riguarda la Puglia, ma insomma l'olio, e poi ce lo proviamo a bercelo tutti, no? Come si dice, no? Quindi continuate a bere l'olio della Puglia che è buono, anzi c'è un mezzo slogan anche nei presidi che dice quasi quasi che ci facciamo due bruschette con l'olio alla xylella, con l'olio alla xylella. Ancora più saporito. Va bene, ti ringrazio, ci sentiamo prossimamente. Va bene, ciao a tutti. Ciao. So far out of my head, this rain of heart.